di giorno, ma eravamo in questa chiesa qua, in un ambiente triste, ma sappiamo tutti che è là, lui ci vede, ci proteggerà. Diceva perché mi guardate così, fai uscire tutti tu.